L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati con l'Altra Europa, come ogni settimana il nostro appuntamento per raccontarvi l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, l'Europa delle opportunità. Chiocciola Aeronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, i nostri social network, Twitter e Facebook, bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, oppure radio24.it, il nostro sito. Nelle nostre pagine potete trovare i contributi extra o, come sempre, da lì potete scaricare il podcast. Queste sono tutte le informazioni. Ora si parte, ogni settimana un viaggio. Si parte oggi parlando di verità e libertà. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom. Cento venti giovani che si sono trovati a Sarteano in provincia di Siena, artisti, leader, tutor provenienti da tutta Europa in questo progetto nell'ambito di Erasmus Plus, un progetto denominato La libertà completa della verità. Ne parliamo con Francesco Pipparelli, youth leader, social media manager e curatore della manifestazione. Ciao Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, ciao Federico, è un piacere. Due settimane intense. Assolutamente sì, siamo appena usciti dal progetto e siamo veramente, veramente contenti per come è andato. Sono quei progetti che tra l'altro mettono in stretta connessione, no, il territorio, perché Sarteano di fatto è un piccolo comune con l'Europa, no, con questa doppia prospettiva dell'Europa che avvicina il piccolo e il piccolo, in questo caso un comune toscano che si apre al macro. In cosa consisteva il progetto? Il progetto è molto ampio, non si può spiegare in due parole. Talvolta mi trovo in difficoltà a spiegarlo anche semplicemente a chi non l'ha vissuto in prima persona. Cercherò di aprirlo un po' e di spiegartelo, ma sì, è come, diciamo, un grande fiore dove ogni nazione che partecipa manda un petalo, ed ogni petalo ha dentro di sé tante piccole parti che sono ogni artista che viene mandato, perché ogni nazione manda, grazie ai finanziamenti europei, degli artisti giovani dai 16 ai 25 anni che lavorano insieme in tutte le più disparate discipline artistiche, dal teatro alla musica, abbiamo addirittura avuto burattini, marionette, arti visive, davvero tutte le discipline possibili e immaginabili. Ricordiamo che Romania, Portogallo, Georgia, Serbia, Bosnia, Italia e Regno Unito, le nazioni coinvolte, e l'arte come grande filo conduttore per parlare, discutere, amplificare temi importanti come la libertà e la verità, quindi concetti astratti a cui avete dato un'espressione artistica. Esatto, e quest'anno l'unione, perché siamo partiti, il progetto è The Complete Freedom of Truth, come dici tu bene, è la completa libertà della verità, e abbiamo analizzato via via negli anni la libertà, la verità, e quest'anno abbiamo analizzato la completezza, traducendola in italiano più come unione, e abbiamo lavorato proprio sull'unione in un momento che specialmente per i nostri amici inglesi non è, diciamo, facilissimo. Infatti, com'era il loro umore? Com'era essere appunto artisti inglesi a rappresentare l'Europa in un momento in cui appunto il Regno Unito ha deciso di andarsene dall'Europa? Sicuramente c'era molta amarezza, perché queste persone ovviamente credono nell'Europa, perché hanno visto che quando funziona veramente bene, E quindi vedevi queste persone che lavoravano anima e corpo per poter dare quell'ultimo colpo di coda, quell'ultimo cambiamento in un momento che per loro sta per essere, diciamo, la fine di questa fase. Certo. Però stanno già pianificando di tornare in qualche modo e restare coinvolti. E Sarteano quindi è diventato un grande palco in queste due settimane. Sì, davvero, davvero tutta la città, tutto il paese, perché la nostra performance finale si è strutturata a partire dalla piazza del paese fino a salire dentro i borghi ad arrivare all'antico castello medievale dove si è conclusa. Quindi è stato proprio abbracciato tutto il paese dalla nostra performance, dal nostro progetto. Francesco, tu sei giovanissimo, hai 19 anni e sei già coinvolto in progetti di questo sì, tipo. Sì, ho avuto molta fortuna, sono molto, molto fortunato e molto contento di essere parte di questo tipo di progetti. Ho sempre cercato di restare nell'arte, nella musica, con vari progetti, cercando anche di organizzarli e dare un contributo attivo, e sono fortunato a ritrovarmi anche in questo, diciamo. Sei stato coordinatore un po' in questi giorni? Sì, perché quando sono stato in Inghilterra nella scorsa edizione del progetto, l'anno scorso, ero lo youth leader italiano e quindi diciamo che ho partecipato anche a quella che è stata l'organizzazione nei mesi precedenti, mentre quando siamo stati proprio a Sarteano ho dovuto dare una mano in tutto, dal contare le persone che erano nei vari locali a mangiare, ai passaggi, ma anche alla, come hai detto benissimo tu, a un po' di press management. Certo. Francesco, sono esperienze, sono attività che hanno un impatto sul territorio, nel senso, immagino che sia stata un'esperienza bellissima perché l'ha vissuta da protagonista. E gli spettatori, per spettatori intendiamo proprio i cittadini, come hanno accolto, come hanno reagito? È stato molto bello vedere che tutte le persone hanno aiutato, perché il progetto, come dicevo, c'è stata un'edizione inglese l'anno scorso e era un po' chiuso. Questa è stata una delle criticità del progetto, perché era dentro al campus universitario di Bournemouth, che potenzialmente è fantastico per via delle grandi possibilità tecnologiche, di strutture che offre. E noi eravamo limitati sotto questo punto di vista, allora abbiamo detto: qual è la potenzialità di un borgo italiano? La potenzialità è la gente. Allora i nostri ragazzi non sono stati negli alberghi, ma sono stati nelle case, e è stato un continuo scambio tra la popolazione e la gente che partecipava con tutti i nostri eventi minori, che erano aperti anche alla cittadinanza, che poteva venire e partecipare attivamente ad essi. Questo è Erasmus Plus, questa è l'Europa che mette a disposizione i propri fondi per attivare situazioni, attivare cambiamenti anche sul territorio. Francesco, c'è un sito di riferimento per conoscere il progetto? Assolutamente sì, www.thecompletefreedomoftruth.com. Perfetto, lì potete trovare tutto il percorso in atto. Sì, poi abbiamo anche pagine Facebook e Instagram, quindi ci potete contattare. Grazie a Francesco Piparelli, ciao e buon sabato. Ciao, buon sabato, grazie mille. Noi ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Erasmus per giovani diplomati nel settore alberghiero. Hai tra i 18 e i 29 anni e hai un diploma nel settore alberghiero? Nell'ambito del programma Erasmus Plus, Cescot Firenze promuove il progetto Green Kitchen, che darà la possibilità a 60 giovani cuochi di fare esperienze di mobilità in vari paesi europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale. Le destinazioni possibili saranno molte, tra queste Germania, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Lituania. Il periodo sarà di 14 settimane a partire da giugno 2017. Iscrizioni entro il 28 aprile 2017, seguendo le istruzioni riportate sul sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Traveled on with nothing but a shadow. un ponte tra l'Europa e la martoriata Siria, un ponte che vede le università protagoniste proprio per dare la possibilità a giovani studenti e studentesse siriane di poter concludere il proprio percorso di studi in Europa. Un progetto europeo si chiama Assur e vede come capofila l'Università dell'Aquila. Lo andiamo a scoprire insieme alla professoressa Anna Tozzi, prorettrice con delega agli affari internazionali dell'Università dell'Aquila. Buongiorno Tozzi, buon sabato. Buongiorno, buon sabato, buongiorno. Un progetto lungo, un progetto nato qualche anno fa, un progetto che guarda avanti e proprio in questi giorni credo ci sia stato un'occasione per fare il punto della situazione. Che cos'è il progetto Assur? Ok, il progetto Assur è nato nell'ambito dell'Erasmus Mundus Action 2, è un programma comunitario molto molto competitivo che vede partenariati europei e partenariati di alcune regioni del mondo per uno scambio di studenti e docenti finalizzata anche al conseguimento del titolo. Sì. Nel 2013, nella crisi che si annunciava, che si stava già delineando, la Commissione europea ha fatto un bando specifico per la Siria, nell'ambito sempre dell'Erasmus Mundus, solo per la Siria, perché quasi tutti gli aiuti comunitari per la zona erano stati interrotti insieme in una decisione comune europea, ma un po' del mondo, di opposizione al governo, certo, siriano. Ed era rimasto soltanto, appunto, avevano lasciato un 3 milioni di euro per due progetti Erasmus Mundus e qualche altro progetto di cooperazione. Nel 2013 è uscito questo bando e noi abbiamo pensato che avevamo il dovere morale come università di pensare ai ragazzi, come facciamo per tutti i ragazzi del mondo, ma in particolare per i ragazzi siriani, che avrebbero sicuramente avuto delle grandi difficoltà a prendere il loro titolo. Quindi abbiamo costituito un partenariato europeo e un partenariato di università siriane e abbiamo iniziato a scrivere questo progetto. Siamo riusciti nella scadenza a presentare tutte le carte, tutti i documenti che servono e poi siamo uno dei due progetti approvati. L'altro progetto è coordinato dall'Università Tecnica di Berlino. Certo. Questo coordinato da noi vede noi, solo la nostra università come attiva in Italia in questo campo. E bisogna dire che durante lo svolgimento del progetto, ma già all'inizio dopo l'approvazione, il panorama, la situazione in Siria cambiava costantemente, ogni giorno, no? C'erano notizie sempre, sempre più gravi. Sì. Durante la preparazione è stata bombardata per la prima volta l'Università di Aleppo, avevamo notizie di colleghi che andavano via dalla Siria, ma nello stesso tempo avevamo anche notizie di colleghi che volevano restare per fare il loro dovere di docenti universitari, quindi preparare e dare un futuro ai ragazzi. E così abbiamo iniziato a selezionare ragazzi per venire a prendere il titolo da noi e nelle altre università europee, partner del progetto. E abbiamo selezionato 57 ragazzi di tutti i livelli di studio, sia laurea di primo livello, laurea magistrale che dottorato. E la gran parte di loro sta qui per prendere il titolo, quindi per tutto il periodo, il percorso di studio. Certo, all'Aquila c'erano 10 studenti, tra l'altro stavo pensando mentre la professoressa ci raccontava, no, come nasce un progetto europeo, che c'ha proprio queste due facce, quella burocratica, no, prettamente burocratica, finanziamenti, partnership, sì. E poi sono persone sia, esatto, chi promuove tutta questa attività, esatto, sia esatto, poi in questo caso 10 studenti, quindi credo che sia sempre un intreccio delicato e stimolante, no? Nello stesso tempo. Quante volte la burocrazia vi ha fatto imprecare? Abbastanza, abbastanza, perché certe cose che sono già complicate e difficili da far capire a colleghi che vivono una vita normale, no? Certi documenti, richiederli ai partner siriani era abbastanza complicato. Abbastanza complicato, però insomma ci siamo riusciti, e devo dire con i colleghi siriani ce l'hanno messa tutta. Poi quando mancava qualche carta abbiamo detto questo non ce la faccio, e poi man mano anche negli anni successivi addirittura anche l'Italia, no? Ha fatto una norma in cui diceva se il ragazzo siriano che viene e si vuole iscrivere non ha i documenti, perché la documentazione non esiste più, non ci possiamo fare niente. Certo. Quindi dobbiamo per forza accogliere, credere sulla parola. Non c'è altro modo. Altra via. Professore, quindi è già un po' tempo di bilanci. Guardando indietro, guardando la storia così com'è andata, come siete felici? Quando io feci questa proposta, diciamo che sono stata presa un po' per matta, perché chi conosce il programma sa che ci sono tante incombenze, no? La selezione, l'ambasciata, il visto, documentazioni, no? C'è tutta una preparazione alla mobilità estremamente complessa che insomma sembrava impossibile da svolgere nella sua interezza. In questa situazione. Nel frattempo tutte le ambasciate europee hanno chiuso. Sì. Mm-hmm. Quindi l'ambasciata dove rivolgerci noi e i candidati è la più vicina, è Beirut. Mm-hmm. Dove si poteva andare negli ultimi due anni solo in taxi, non c'era un servizio. Quindi anche le spese per andare a fare il visto, non solo andare a fare il visto con difficoltà, ma anche una spesa aggiuntiva che non sapevamo nemmeno come mandare, i soldi non possiamo mandarli lì. Certo, come, quindi era sempre un rimborso, quindi certo. C'era insomma un impegno economico anche da parte loro. Eravamo pronti a rimborsare, però una volta venuti qui non potevamo fare diversamente. Quindi parecchie cose burocratiche, parecchie difficoltà burocratiche sono state affrontate. Devo dire che la nostra ambasciata a Beirut ci ha aiutato molto. Una volta che il progetto è stato approvato, abbiamo subito informato di quello che stava per succedere, nel senso che avrebbero avuto parecchie richieste di visto, questo tipo, sì. e spiegargli cosa era il programma e perché stava succedendo questo, e devo dire ci hanno veramente sostenuto. E per questi dieci ragazzi, voi avete appunto vissuto l'esperienza di 10 ragazzi lì all'Aquila, questi anni come sono stati? Immagino anche anni di preoccupazione, di... All'inizio erano spaventati, certamente, e come ieri dicevano, hanno raccontato i ragazzi, all'inizio erano spaventati, una situazione diversa, alcuni venivano da zone più tranquille, perché la Siria non è tutta bombardata, tutta distrutta, ci sono delle zone veramente disastrose, ci sono delle zone un pochino più sicure. E le persone cosa fanno? Ma lo facciamo noi costantemente, si rifugiano in quelle che sono le sicurezze, no? Quindi sì. Ognuno cerca di costruirsi intorno una parvenza di normalità, no? di normalità, di vita normale, perlomeno ci si prova. Infatti gli studenti continuano a iscriversi all'università, gli studenti continuano a cercare di costruire il loro futuro, e i ragazzi che sono venuti qui in Italia, in Europa, sanno che e hanno deciso, solo pochissimi, di chiedere poi l'asilo. Uh-huh. Vogliono tornare appena possibile per ricostruire la loro terra, è quella lì. Credo che questo sia il messaggio più bello e più forte. Sì, veramente bello da parte di questi ragazzi. Soprattutto ieri una ragazza diceva io sono venuta qui non per fuggire dalla guerra, perché volevo fare un'esperienza di studio e di preparazione professionale elevata, che mi consentisse poi, una volta finita e laureata, di poter tornare e dare una mano. Certo. E questo mi sembra veramente una cosa bella. Poi abbiamo aggiunto un altro progetto, quello che ha sostituito l'Erasmus Mundus, che è Credit Mobility, e altri 6 ragazzi sono adesso da noi, quindi sono 16 in tutto. Univac.it, questo è il sito dell'Università dell'Aquila, per avere tutte le informazioni. State guardando avanti, il progetto, se non erro, terminerà tra qualche mese, però insomma state già mettendo le basi per futura collaborazione, anche perché i ragazzi sono molto bravi, e questo insomma e quindi per noi è un arricchimento, per noi come Ateneo, è un arricchimento per i nostri studenti, è un arricchimento per la società, per la nostra città. E soprattutto penso che I nostri ragazzi, quando si parla di internazionalizzazione di un ateneo, non può essere soltanto inviare studenti all'estero. Ok, benissimo, gli studenti devono fare esperienza all'estero, devono acquisire competenze, conoscenze e esperienze. Bene, ma noi dobbiamo creare un ambiente internazionale anche dentro l'ateneo. Assolutamente, assolutamente. E quindi io vedo l'internazionalizzazione e la mobilità come una circolazione di studenti. Quando si parla di brain drain, no? È una cosa un po' brutta, è una parola brutta, io preferisco parlare di circolazione. Allora un'università, un paese che segue la giusta strada in questo senso deve permettere questa circolazione. Poi se questa circolazione prevede anche il ritorno dei nostri ragazzi che vanno fuori, benissimo. Tanto meglio, esatto. Tanto meglio, naturalmente. Grazie davvero alla prorettrice Anna Tozzi, buon sabato, buon lavoro e complimenti per l'impegno e la passione. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ci fermiamo, un euro post-it e un po' di pubblicità, poi subito qua con l'altra Europa. Euro post-it. Nasce infomigrants.net. A tutti coloro che lavorano, ricercano o partecipano a iniziative legate al tema delle migrazioni e dell'accoglienza. Al fine di informare in maniera completa, equilibrata ed innovativa i migranti e i rifugiati intenzionati a partire o già arrivati in Europa, è nato infomigrants.net, portale europeo in inglese, arabo e francese. Infomigrants è un progetto sostenuto dalla Commissione europea e ha come partner italiano l'agenzia ANSA. Dal lunedì al venerdì, il sito offre notizie di carattere pratico destinate ai migranti, come indicazioni su permessi di soggiorno, assistenza scolastica e sanità. Inoltre, contiene un'ampia sezione dedicata a storie, notizie, inchieste, foto e video sul tema. L'indirizzo preciso è infomigrants.net. L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, Facebook e Twitter per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, oppure radio24.it, il nostro sito e tutte le pagine social anche qui. Continuiamo a parlare di Erasmus, continuiamo a parlare dello stretto rapporto, no? Che si instaura tra gli studenti e tra la città ospitante, l'abbiamo visto poco fa con L'Aquila e i ragazzi della Siria. Adesso lo facciamo presentandovi un progetto che è partito proprio in questi giorni, è promosso da Erasmus Student Network, la sezione di Lecce. Sapete, ESN è l'associazione internazionale che fa supporto agli studenti Erasmus, e ESN Lecce, l'associazione studentesca dell'Università del Salento, che ha lanciato la possibilità di fare volontariato con i bambini presso il polo di oncologia pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Con noi due studenti che hanno proprio iniziato questa attività. Diamo il benvenuto a Constantin De Massé. Ciao Constantin. Ciao. E Nuria Sainz. Ciao Nuria. Ciao. Allora, Constantin, partiamo da te. Tu sei studente della Sorbona e sei in Erasmus a Lecce da quanto? Da settembre. Anche tu invece, Nuria, da settembre. Tu invece vieni da Granada, vero? Sì, io. Ok. Sì, allora, intanto, Costantin, come mai questa scelta? Cioè... La scelta di Lecce? No, intanto sì, partiamo da Lecce. Perché Lecce intanto? Perché io sono già stato a Genova per fare ragazzelle a Pari, e quindi ho visto un po' il nord dell'Italia e volevo vedere il sud per vedere le differenze, vedere un po' come funzionava. Uh-huh. Hai fatto il ragazzo alla Pari, hai fatto il babysitter, cosa hai fatto? Sì, ho fatto sì, ragazzelle a Pari, sì, come babysitter per 9 mesi. Solitamente, no, ma probabilmente anche un'idea con carica di pregiudizi, sono le ragazze che vanno a fare il babysitter. Sì, ma io mi interessa l'educazione, a tutti questi temi, quindi mi è piaciuto fare questa. È stata una bella esperienza, sì. Sì, certo. Perfetto. E insomma, è anche questa attività che hai scelto di fare con i bambini dell'ospedale pediatrico, credo che un po' vada in questa direzione. Sì. Mm-hmm. Sì, esattamente. Poi, non sono bambini che hanno 14 anni, con quelli abbiamo fatto questa attività. Mm-hmm. Ma comunque è molto interessante perché sì, da un po' lo stesso. Ok, la stessa cosa, sì. Certo. Ma Costantin, e poi la stessa domanda la farò anche a Nuria. Da studenti Erasmus c'è, immagino, il desiderio di immergersi nella cultura della città, no? Il fare, per esempio, volontariato nell'ospedale va in questa direzione? Sì, integrarsi nella società è qualcosa di molto importante, credo, per ogni Erasmus, sì, perché a volte può essere difficile di incontrare italiani, nel sud è più facile che nel nord, ma comunque può essere difficile di integrarsi, e quindi queste attività come attività sociale è un buon modo di prendere parte alla vita sociale di Lecce. Nuria, tu invece hai scelto di fare questa esperienza perché? L'esperienza in ospedale? Sì. È un po' lo stesso, no? Ma per noi è un'opportunità bellissima ed è davvero coinvolgimento locale, perché attraverso l'associazione Erasmus abbiamo trovato, ci hanno aiutato Riccardo e Mattia, e abbiamo avuto questa opportunità di davvero riuscire a essere una mattina in ospedale con i ragazzi leccesi o salentini, e abbiamo fatto questa esperienza interculturale che è molto bella e di cui tutti guadagniamo e siamo tutti più ricchi, e non so, per questo a me anche mi piace questa attività sociale, certo. Quindi è molto bella. Il primo incontro è stato mercoledì 12, cosa avete fatto, Nuria? Siamo andati la mattina e abbiamo fatto un po' di musica, abbiamo suonato strumenti, abbiamo anche parlato un po' della tradizione musicale spagnola, abbiamo cantato in francese, in inglese e in spagnolo, e anche abbiamo parlato la sevillana, abbiamo visto le video di altre tradizioni spagnole come Castel, la Jota, non so, e quindi e anche loro ci hanno mostrato un po' la musica che gli piace. E quindi è un po'... Insomma, avete fatto fare un assaggio di Erasmus anche ai bambini, ai giovani pazienti, che credo che sia proprio anche nell'ottica del progetto. Erasmuslecce.it, questo è il sito per chi volesse avere maggiori informazioni. Complimenti a voi e insomma buon Erasmus. Quando finisce? Quando tornate a casa, Costantin? Andiamo a casa a luglio tutti e due, ma volevamo aggiungere che veramente grazie all'ICN che abbiamo potuto fare questo progetto, e anche all'associazione dell'ospedale Un Sorriso in Più, che abbiamo anche altri progetti con loro. Siamo andati in carcere per giocare con i detenuti, per giocare al football, anche abbiamo fatto, c'è una gara che è organizzata da questa associazione, quindi sono molto importanti, e sì, e li ringraziamo per questo. E noi facciamo nostro e amplifichiamo questo ringraziamento. Ciao, sì. Costantin, ciao Nuria, grazie, buona giornata. Ciao. Grazie, ciao. Barbed wire. Did you impress the rain? Did the sun? Arctic Under Attack, l'Artico sotto attacco, il titolo di una mostra fotografica che si è tenuta nel cuore del Parlamento europeo dal 10 al 12 aprile, una mostra voluta dall'europarlamentare del gruppo Verde Alleanza Libera Europea Marco Affronti e che ha visto protagonisti gli scatti di un documentarista, regista e fotografo italiano, autore di più di 10 libri. Uno di questi libri è Pianeta Terra, un mondo da salvare, e proprio da quel libro sono state estrapolate le drammatiche e bellissime immagini. Diamo il benvenuto a Luca Bracali. Ciao Luca. Sì, ciao, ciao Federico, un caro saluto a te e a tutti, diciamo, i nostri ascoltatori di Radio 24. Con i tuoi scatti, con le tue immagini hai portato un dramma ambientale nel cuore d'Europa. Sì, è proprio così, esattamente come hai detto tu in questo tuo lancio. Io considero la fotografia come il linguaggio più universale che esista, ancor più della musica, che già insomma è piuttosto ad ampio spettro. Con la fotografia cerco di toccare il cuore delle persone, di sensibilizzare. La utilizzo un po' come un ariete di sfondamento proprio per far aprire gli occhi delle persone. Ma finché la fotografia si tratta, io faccio mostre in Italia e nel mondo, da New York a Kiev, adesso andrò anche in Birmania, ma finché si tratta appunto di mostre in gallerie d'arte dove le persone apprezzano le tue immagini, la tua arte e così via, è un conto. Un altro conto invece è riuscire a toccare il cuore, diciamo, del potere politico della nostra cara vecchia Europa. Qui parliamo di una mostra fatta nella sala principale del terzo piano del Parlamento Europeo a Bruxelles, dove i miei scatti hanno veramente attratto l'attenzione dei tantissimi, ma veramente tantissimi onorevoli che si sono fermati e si sono complimentati, perché qualcuno ha detto non era mai stata vista una mostra di così alto livello, e questo mi ha fatto piacere, perché a me non mi interessa i complimenti sulle mie foto, a me interessa portare il messaggio. 27 immagini che raccontavano quale messaggio? Il messaggio era appunto il global warming, di cui tanto si parla, che ha come conseguenza principale lo scioglimento dei ghiacciai, la distruzione di ecosistemi veri e propri, e purtroppo, come dice l'onorevole Marco Affronte, appunto che ringrazio per avermi ospitato, per avermi aperto, diciamo, il salotto di casa sua, per così dire, naturalmente apre nuove opportunità economiche. E questo è il dramma. Invece di preoccuparsi le persone di quello che può accadere agli equilibri planetari per quanto riguarda la climatologia, no, si va a pensare, si sciolgono i ghiacci, benissimo, si aprono nuove rotte di navigazione e nuovo sfruttamento di territori per il drilling, appunto per la perforazione del sottosuolo e estrarre altro petrolio. Ma capiamo quello che stiamo facendo. E proprio addirittura mi piacerebbe ricordare che il Parlamento europeo proprio ha votato in plenaria a fine marzo una risoluzione proprio sulla politica integrata dell'Unione europea per l'Artico. Certo. E proprio l'ampia maggioranza raggiunta ha proprio evidenziato una presa di coscienza dell'urgenza di questo problema e la necessità di affrontarlo, per cui la mia mostra è, insomma, come si suol dire, è proprio, insomma, caduta a fagiolo sull'argomento. Luca, per salutarci, ci fai vedere una di queste immagini? C'è una di queste foto che più di altre rappresenta il tuo lavoro, ce la racconti? Volentieri, te la dipingo in diretta adesso. Gli orsi polari, l'icona più riconosciuta di questo straordinario mondo artico, che io fotografo questi animali, questi straordinari plantigradi, diciamo, da ormai da anni, dal 2008. Pensa che lo scorso novembre, anzi due anni fa, nel 2015, a Churchill, la capitale mondiale degli orsi polari, la baia di Hudson, registrava una temperatura di meno 20 gradi centigradi il 9 novembre del 2015 alle ore 12. Pochi mesi fa, lo scorso novembre del 2016, stesso giorno, stessa ora, ero io presente, segnava il termometro più 3 gradi, 23 gradi di differenza come escursione termica. Ho le foto dell'orso polare nella baia ghiacciata che va in giro e cerca le sue magari fochette, perché insomma di quelle si ciba. Quest'anno invece gli orsi polari, sai di cosa si cibavano? Di qualche granchio e di alghe. È una vera e propria tragedia ecologica. LucaBracali.it, questo è il sito per conoscere tutta l'attività di Luca. Grazie Luca per essere stato con Grazie. Noi. Complimenti. Grazie a te Federico, un caro saluto a tutti. Grazie, a presto. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con l'altra Europa. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it, col TH. Vi presenta... l'altra Europa. this frog? It's a very tiny frog, but it's also very special. You can only find it in the jungle, so far away from here. But if you find it, and if you touch it, your world can change forever. If you touch its skin, you can feel your body change. Vision also. Blue becomes red and red becomes blue. And your mommy suddenly becomes your daddy. And everything looks like a giant cupcake. And you keep laughing. Sviluppare una cultura digitale, educare al pensiero digitale, anche e soprattutto attraverso il coding, è una delle attività su cui sta puntando tantissimo la Commissione Europea, lo fa con dei progetti a cui dà anche il proprio avallo, perché è un progetto che può essere replicabile per la sua qualità in altre situazioni, in altre realtà, in altre città. Ed è quello che è successo a Facility Live Coding for Kids, il progetto realizzato a Pavia da Facility Live, la startup tecnologica, una delle più importanti in Europa, fondata da Giampiero Lotito e Mariuccia Teroni, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Mariuccia, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Allora, si parte dai bambini per sviluppare una nuova cultura digitale. Che cos'è Facility Live Coding for Kids? È esattamente quello che tu hai detto, cioè è questa iniziativa che noi abbiamo proposto al Comune di Pavia per avvicinare sin da piccolini questi giovani studenti al magico mondo della programmazione, della tecnologia, no? Della cultura digitale, che è, come piace chiamarla a me, è proprio il magico mondo. È l'intento di avvicinare questi bambini e farli vivere proprio in una realtà che si occupa di tecnologia ad altissimo livello, quello che succede, com'è la vita di chi lavora a questi progetti e questi prodotti innovativi. Quindi una volta al mese tre classi, sono le quarte classi delle scuole primarie di Pavia, vengono a turno nel nostro headquarter e con i nostri programmatori più esperti vivono questa esperienza programmando loro stessi e facendo vivere sullo schermo i loro, diciamo, personaggi di fantasia preferiti, proprio dando dei comandi macchina al computer e vedendo quello che succede. Devo dire che l'esperienza è straordinaria per questi bambini, ma ancora più straordinaria per noi che li seguiamo, perché sono veramente hanno una marcia in più rispetto a quello che eravamo noi, mi ricordo quando avevamo la loro età. Per certo. Cui devo dire un esperimento ben riuscito da ambo le parti, dal mio punto di vista. Mario, ce l'abbiamo, abbiamo visto Facebook, abbiamo visto Google in questi mesi sviluppare proprio progetti dedicati ai più piccoli. Lo fate anche voi, no? Uno pensa che una startup lanciatissima come la vostra abbia più la testa alla Silicon Valley che alla scuola elementare della propria città. Invece c'è proprio l'esigenza reale di penetrare nelle situazioni quotidiane per fare una nuova educazione? Ah, sì, assolutamente sì. Guarda, noi stiamo vivendo in questo momento un periodo storico molto particolare, che se vuoi ha anche delle analogie a quello che è successo 30 anni fa in Silicon Valley, quando è partita la rivoluzione digitale, che è stata una rivoluzione tecnologica, perché allora cambiava proprio la tecnologia che veniva usata, veniva abbandonata la tecnologia analogica e veniva presa in adozione un nuovo tipo di tecnologia che era quella digitale. Oggi cosa sta succedendo? È in atto una nuova rivoluzione, perché questa rivoluzione è nata 30 anni fa in America, in Silicon Valley, è nella sua fase decrescente. Contemporaneamente sta partendo la trasformazione digitale che, contrariamente a quella di cui ho parlato prima, è una rivoluzione culturale e non avviene più, non ha più la sua culla in America, ma la sua culla in Europa. la trasformazione digitale, una trasformazione di cultura, dove che è una cultura d'impresa, non è più una cultura tecnica, ed è una trasformazione pervasiva che coinvolgerà tutti noi, le nostre vite, indipendentemente dalla nostra età, dal nostro lavoro e da quello che facciamo. Quindi è un momento molto importante questo, da vivere e soprattutto da far vivere ai ragazzi di oggi, perché stanno arrivando delle opportunità che, se saremo bravi a cavalcare, potrebbero fare la differenza. E credo anche, qua parlo più agli apocalittici, diciamo, è un modo anche per proteggersi, perché comunque si prende consapevolezza del mezzo. Ma assolutamente. Assolutamente si prende consapevolezza del mezzo, ma oltretutto è un mezzo che, se ben utilizzato, permetterà veramente anche una trasformazione di quello che è il lavoro, di quelle che sono le professioni, di quella che è la vita anche di tutti i giorni delle persone. Sta avvenendo un cambiamento particolare dove la macchina, che prima era stata messa al centro del mondo, inizia ad essere spostata in periferia e torna ad essere messo al centro del mondo l'uomo. E io la trovo una cosa fantastica. Assolutamente. Questa. Mariuccia, voi siete di casa a Bruxelles e in questo momento di trasformazione / rivoluzione l'Europa c'è? Allora sì. L'Europa c'è, ma non solo l'Europa, c'è questa consapevolezza che sta venendo fuori da più punti, da più parti. E quello che io dico sempre, lo dico quando ho la possibilità, no? Che a me piace molto di confrontarmi con i giovani, che dobbiamo imparare a credere. A crederci e a credere in noi stessi e nelle nostre capacità, perché ti assicuro, noi di Facility Live siamo 80 persone, sono 80 ragazzi, tutti italiani, tutti usciti dalle università italiane, competono con i loro colleghi della Silicon Valley e in tutto ciò abbiamo ottenuto brevetti in 44 paesi nel mondo per la tecnologia che loro stanno sviluppando, che noi italiani stiamo sviluppando. E mi sembra, insomma, no, certo, non aggiungerei altro, mi sembrano dati e numeri molto, molto significativi. Un grazie a Mariuccia Teroni, ricordiamo www.facilitylive.com il sito per avere maggiori informazioni. Grazie, buon sabato. Grazie, buon sabato a tutti, ciao. Questo grazie lo allarghiamo a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a Peter Bescapè, oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete contattarci, se volete inviarci progetti, idee, suggerimenti e anche critiche. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo, radio24.it per scaricare il podcast. A Federico Taddia sui social Twitter e Facebook. Ancora ciao. L'altra Europa.